L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, siamo in diretta, sono 7 minuti dopo le 12, questa è Radio 24, questa è l'Altra Europa, il nostro appuntamento settimanale in collaborazione con Euronet Plus, network europeo, tante voci diverse, tante lingue diverse per raccontare un percorso comune. Solitamente cerchiamo di andare oltre, di andare al di là della stretta attualità europea, però la cronaca di questi giorni ci porta ovviamente anche noi a Parigi, parleremo anche da altro, ma partiamo proprio da lì. Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amas. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. La cronaca drammatica di questi giorni, di queste ore, la conoscete bene, anche grazie a Radio 24 che ha seguito minuto per minuto. Oggi cerchiamo di fare un gradino in più, di fare uno step successivo in questi minuti, cerchiamo di fare un ragionamento su quello che è accaduto, su quello che sta accadendo, e lo facciamo con l'onorevole Michela Marzano, filosofa, saggista, vive e insegna a Parigi ed è qua con noi. Buongiorno Marzano, buon sabato. Buongiorno. Com'è Parigi in queste ore, come si è svegliata oggi? Si è svegliata ancora nel torpore, nel senso che si è ancora un po' tutti presi dagli ultimi eventi, si sta preparando la grande manifestazione di domani e è una città molto concentrata in questo momento, ecco. Ho letto un po' dei suoi scritti in questi giorni, la paura, la tensione, l'istinto, però le sue riflessioni hanno cercato subito di fare un gradino ulteriore, quindi non fare una fotografia basata solo sulla pancia, ma cercare anche di usare subito la testa. A livello culturale, cosa è accaduto? Cosa sta accadendo? Questo è il vero problema, è che ci si trova di fronte a una crisi culturale e valoriale profonda, cioè con questi fatti di violenza terribile che hanno attaccato quindi la libertà di espressione, in realtà c'è un movimento, c'è un vero e proprio attacco nei confronti della libertà, è come se la libertà insieme poi agli altri valori della Repubblica, cioè l'uguaglianza, la fraternità, non avessero più quella portata universale che hanno avuto per secoli. È come se ci fosse una crisi profonda, ci si stesse sbriciolando ed è come se ci fosse a questo punto la volontà di distruggere questa libertà, perché la libertà non parla più, la libertà di cui si sentiva anche quella canzone molto bella che è passata prima, cioè persone che si sono battute in nome della libertà e che adesso si trovano esse stesse vittima di qualcosa che non funziona più. È come se si fosse perso di vista poi anche quel patto repubblicano, quel qualcosa che doveva portare tutti a lavorare insieme per costruire insieme il vivere insieme. Ciò che secondo me è proprio in gioco in questo momento è la tenuta del vivere insieme, cioè come continuare a vivere insieme tenendo presente che ci sono anche dei credo religiosi diversi, ma che questa diversità non deve poi mettere in discussione i valori fondanti che hanno fatto sì che si tenesse, che si portasse avanti un discorso poi alla fine di unità. Allora, da questo punto di vista è importante secondo me sottolineare l'unità che c'è stata almeno a livello istituzionale da parte della Francia. Allora, è vero che domani non parteciperà Marine Le Pen al grande rassemblement unitaire national che è stato costruito proprio per invitare tutti i francesi a manifestare e a mostrare che questi valori sono centrali, però se si mette da parte la non presenza di Marine Le Pen, la risposta a livello istituzionale è stata unitaria. Certo, è anche triste vedere che invece poi, per esempio, sui social network, a un certo punto ieri c'era un hashtag che era tra i più utilizzati e che invece di essere Je suis Charlie era Je suis terrorista. Cioè c'è stata anche poi comunque un'identificazione da parte di alcune persone con questa violenza, e quindi ci si rende conto a questo punto che c'è da fare un vero e proprio lavoro, un lavoro di formazione, un livello culturale, c'è qualcosa che non funziona più nella trasmissione dei valori. Anche perché questo vivere insieme poi che riscontro ha nel quotidiano, perché poi è la quotidianità che fa anche la cultura, che fa la colonna portante di una società. Qualcosa e cosa non ha funzionato in questo modello di integrazione francese? Allora, dunque, da un lato io penso che quello a livello proprio teorico, un problema che c'è stato è che c'è stata una confusione, secondo me, progressiva tra integrazione e assimilazione. Cioè l'integrazione è quella che deve portare in fondo un popolo a vivere insieme, a credere in determinati valori, nel rispetto però delle differenze reciproche. Nel momento in cui si passa però dall'integrazione all'assimilazione, c'è la tendenza a svicolare, cioè a cancellare, a credere che per vivere insieme si debbano anche cancellare determinate differenze. Ora, naturalmente, questo poi porta a delle prese di posizione che possono essere anche violente, con rivendicazioni identitarie forti. In realtà io quello che c'è dietro è proprio una crisi identitaria in questo momento, cioè che cosa vuol dire essere un cittadino europeo, cosa vuol dire essere un cittadino francese. Per esserlo io devo sacrificare le mie radici culturali, devo sacrificare il mio credo religioso, oppure non significa sacrificare niente di tutto ciò, ma viverlo nel rispetto poi anche degli altri. A me è una cosa che colpisce molto, anche proprio insegnando con i miei studenti all'università, è che la parola rispetto ha quasi perso senso. Molto spesso i giovani dicono ti rispetto se mi rispetti. Io faccio anche molta fatica a cercare di spiegare che in quel rispetto non c'è un dout d'essa, è il rispetto dell'altro in quanto altro, il rispetto dell'essere umano in quanto essere umano. Questa è una deriva che vede anche nella società italiana, oltre che in quella francese? Questo purtroppo lo si vede sempre di più adesso anche in Italia, cioè la nozione di rispetto è sbriciolata, è come se per essere rispettati ci si dovesse necessariamente conformare a determinate aspettative. Allora, è ovvio che ci vuole il rispetto di regole comuni, è ovvio che bisogna costruire appunto il famoso vivere insieme sulla base di valori che siano condivisi, è anche vero però che il rispetto è indipendente, lo si deve avere indipendentemente poi dalle proprie origini, dal colore della propria pelle, dal proprio orientamento sessuale, dalla propria differenza di genere, e tutte queste nozioni in realtà sono molto in difficoltà in questo momento. La ringrazio davvero, onorevole Marzano, per queste parole. Anche l'Europa ha tanto da imparare, ha tanto da cambiare, e speriamo che sia un'occasione per fare nuove riflessioni, per fare nuovi passaggi culturali, per capire, perché c'è tanto bisogno. Speriamo soprattutto appunto che si esca poi dal tentativo di strumentalizzare quello che è successo per aizzare gli uni contro gli altri, invece di prenderlo come un punto di partenza per una riflessione profonda. Facciamo nostro il suo auspicio. Grazie davvero, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Adesso un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua in diretta con l'altra Europa. Europost-it. Lavoro con Eures in Europa. Con il nuovo anno ci sono varie possibilità di lavorare in giro per l'Europa, segnalate dal servizio Eures dell'AFOL, Agenzia di Formazione e Orientamento del Lavoro, di Milano. Ad esempio, nel Regno Unito, l'azienda Jaguar cerca diversi profili, ingegneristici e non, mentre Health Education West Midlands intende assumere più di 200 infermieri. Ci sono diverse opportunità di lavoro anche in Belgio e qualche ricerca riguarda anche l'Italia. Fate un giro sul sito cittametropolitana.mi.it/AFOL Milano per non farvi sfuggire queste occasioni. L'altra Europa. Sit beside you in school while we paint and make you laugh. Mine was never very good. Yours looked exactly like a photograph. Looks like I'm growing up beside you. how I've learned to live with that. It's like I'm a part of something real. Love is in a bottle, now I broke the seal. Looks like I'm growing up inside. L'Europa delle possibilità, l'Europa delle opportunità è quella che tentiamo di fotografare, di narrare qui all'Altra Europa ogni sabato. Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro. Questo è il motto scelto per l'anno europeo dello sviluppo, il 2015 è un europeo che è stato inaugurato proprio ieri a Riga. Che cos'è questo sviluppo? Quali sono le finalità legate a questo anno? Di tutto ciò ne parliamo con Franco Conzato, capo unità aggiunto della Direzione Generale Cooperazione Internazionale e Sviluppo della Commissione Europea. Buongiorno Conzato, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, grazie. Grazie a lei. Allora, un anno impegnativo sotto questa bandiera dell'anno europeo dello sviluppo. La parola sviluppo che in quale accezione? Beh, diciamo che ieri abbiamo inaugurato questo anno europeo dello sviluppo 2015 alla presenza del Presidente Juncker, dell'Alto Rappresentante Mogherini, del Commissario Mimica, e l'obiettivo è di informare i cittadini europei sulle politiche di cooperazione internazionale dell'Unione Europea e soprattutto dei risultati. Non dimentichiamo che l'Unione Europea è il più grande donatore mondiale di aiuti allo sviluppo, provvediamo a più della metà. E lo sviluppo che intendiamo noi è sostanzialmente riduzione completa della povertà nel mondo, ma soprattutto diciamo siamo rivolti al concetto di sviluppo sostenibile. Questa è insomma, la grande sfida, che vuol dire programmi di sviluppo che non pregiudicano le prospettive delle nuove generazioni. Ma quindi è un anno europeo che guarda al di fuori dell'Europa? È un anno europeo che guarda all'Europa, ma si misura con i problemi globali. Il 2015 non è una data scelta a caso, è la prima volta che l'Unione Europea ha come tema dell'anno europeo un soggetto tipico di relazioni internazionali, ma è soprattutto l'anno in cui si fa il bilancio del raggiungimento degli obiettivi del millennio e si lancia un'agenda per un nuovo sviluppo, quella che dicevo prima, cioè incentrata sul sviluppo sostenibile. Quindi l'obiettivo per noi è di creare occasioni, momenti di discussione di alto livello, ma soprattutto partecipativi in tutta Europa e, come dicevo, investano soprattutto i giovani. In Italia l'Expo di Milano, il cui tema è il cibo, ci fornirà un palcoscenico unico per far avanzare idee e conoscenza in tema di cooperazione nel caso della sicurezza alimentare e della nutrizione, e avremo eventi in tutta Europa. Ogni mese discuteremo di temi legati allo sviluppo, ad esempio in maggio si parlerà di pace e sicurezza globali, in settembre di democrazia e migrazione, in ottobre di sicurezza alimentare, in novembre di sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici. Quindi un ricco calendario che poi ogni nazione avrà il modo di declinare anche a propria misura per celebrare, ma non solo, perché solitamente questi anni europei non sono solo delle mere celebrazioni, ma sono proprio l'occasione per riflettere su determinati argomenti anche con iniziative particolari, a volte anche creative. Leggevo di una marcia anche di 20 km a Bruxelles a maggio, un concorso creativo a livello europeo, insomma già ci sono dei primi appuntamenti in agenda, e c'è un sito internet europea.eu/aide2015. Conzato, così nel suo piccolo, qual è l'obiettivo minimo che spera di raggiungere con questo anno europeo? Ma diciamo, come dicevo prima, l'idea è veramente far avvicinare il maggior numero di cittadini, ma anche organizzazioni. Sono nell'organizzazione dell'anno europeo sono investite le istituzioni europee, ma soprattutto i paesi membri. Ogni paese membro ha un programma di sensibilizzazione che va alle istituzioni dei paesi nazionali, quindi ci saranno le università che verranno coinvolte, ci saranno le organizzazioni non governative. Quindi diciamo lo sforzo è soprattutto di informare, di far prendere molta più conoscenza di questi di questi programmi, ma come dicevo all'inizio, far vedere che ci sono dei risultati, cioè che è possibile sostenere un cambiamento se siamo in grado diciamo di far passare questi messaggi ai vari livelli. Verranno coinvolti anche i paesi beneficiari, come dicevo prima nel caso dell'Expo. L'Expo è una vetrina mondiale, ci certo. saranno più di 140 paesi rappresentati, e non sono tutti paesi sviluppati. Mm-hmm. Quindi tutte le varie dimensioni dell'aiuto allo sviluppo, o come diciamo piuttosto del nuovo concetto di sviluppo, verranno affrontate. Quindi questa è la nostra grande ambizione. Grazie davvero Constato, buon 2015, mi sembra l'augurio migliore, e ci ritroveremo sicuramente qui all'Altra Europa per raccontare appunto il proseguo di questo anno europeo dello sviluppo. Salve, buon sabato. Grazie a lei. Europostet. Finanziamenti per serie sul web in Sicilia. Siete giovani scrittori, sceneggiatori, registi o videomaker? Questo bando di cofinanziamento può interessarvi. La Sicilia Film Commission, parte dell'Assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, ha bandito un concorso per la realizzazione di serie destinate al web, che siano girate sul territorio siciliano o che includano aspetti distintivi di cultura, enogastronomia e storia siciliana. Il bando arriva a cofinanziare le opere fino a 15.000 euro, più 4.500 euro per la realizzazione. Per conoscere meglio i requisiti per partecipare, andate su italianfilmcommissions.it e cercate Sicilia Film Commission. Settimana fa abbiamo parlato di Creatify, questo programma, questo bando europeo per Lab Italia e Sud-Est Europa, coordinato da Trentino Sviluppo. Ne avevamo parlato con Luca Capra, che è con noi anche oggi, perché sono state selezionate le prime 15 startup, di cui 12 italiane. Ciao Luca, bentornato all'Altra Europa. Buongiorno a tutti, buongiorno Federico. Allora, ricordiamo che cos'è Creatify. Creatify è un progetto finanziato dalla Commissione Europea, ancora sotto il cosiddetto settimo programma quadro, e ha l'obiettivo sostanzialmente di finanziare a sua volta dei progetti presentati a piccole e medie imprese europee, realizzando così un meccanismo che rende più semplici il finanziamento alle imprese vincitrici. Normalmente è la Commissione Europea che finanzia direttamente una piccola media impresa, certo. E naturalmente questa può avere difficoltà in tutti gli aspetti amministrativi, burocratici, proprio perché la grande impresa su questi aspetti è molto preparata, la piccola media impresa generalmente ha delle difficoltà in interazione con la Commissione. Questi tipi di progetti con Creatify, di fatto, è il consorzio Creatify che fa poi il contratto con la piccola media impresa, quindi semplifica di molto le procedure burocratiche amministrative, l'impresa può concentrarsi nello svolgere il suo compito, il suo lavoro, senza troppe fardelli burocratici. Adesso sono state selezionate, se ho capito bene, 15 startup con un finanziamento minimo attorno ai 10.000 euro per arrivare alla realizzazione di un prototipo, dopodiché, se diciamo il prototipo passa l'esame, c'è poi il finanziamento più cospicuo per entrare nel mondo del business. È un po' questa la strada? Esattamente, di fatto vi sono due bandi, uno che si è appena concluso e per l'appunto il nostro hub del sud-est Europa ha finanziato 15 progetti. Questi avranno adesso 8 mesi di tempo per realizzare un prototipo software che abbini software e mondo della creatività, sì. Dopodiché a settembre del prossimo anno uscirà un secondo bando che farà un ulteriore filtro, che premierà i migliori e darà a questi un massimo di 100.000 euro per poi i prototipi prodotti che accrescono l'economia europea di queste piccole e medie imprese. Certo. Certo, questa è l'Europa delle possibilità e vediamo un po' la creatività in cosa si è concretizzata. In un paio di minuti puoi farci una carrellata di questi 15 progetti? Certo, sono tre principali categorie secondo me in cui si possono classificare. Una categoria sono progetti che hanno presentato delle tecnologie software che sono utili per il mondo delle industrie creative. Sì. E poi tutta una parte di social applicato invece al mondo della creatività. Una terza categoria la definirei una categoria che ha proposto dei software che aumentano l'esperienza dell'utente finale. Faccio degli esempi per più pratici. Per quanto riguarda le tecnologie che supportano industrie creative, abbiamo dal progetto che aiuta la localizzazione interna di un utente in modo che anche se questo si trova in un museo, ma non sappiamo esattamente dov'è, un software che aiuta una certificazione di prodotti creativi, cosiddetto copyright, software che supportano lo sviluppo più sicuro, la distribuzione di giochi, di game software. Abbiamo poi anche dei meccanismi per realizzare delle app in modo molto semplice da parte di designer che non sanno programmare, ma con quattro click riescono a realizzare un'app sperimentale. Certo. Abbiamo poi piattaforme che aiutano coloro che progettano a interagire con coloro i quali mettono colori e forme alle cose progettate. Tablet per non vedenti che possono aiutare i non vedenti a aiutare a sperimentare veramente internet invece che leggere semplicemente i testi, software che aiutano a rilevare la funzione che un visitatore ha di fronte a un certo quadro in una mostra ad esempio, mm-hmm. O addirittura un software che personalizza la voce sintetizzata in modo che può essere applicato questo in molti casi di giochi in cui tu puoi farlo con la tua voce personalizzata. Quindi sì. No, dicevo appunto molteplici direzioni. Creatify.eu, così è scritto il sito, oppure trentinosviluppo.it per conoscere i progetti e per conoscere l'intero programma. Ricordiamo 15 startup, 6 trentine, poi altrettante provenienti da Friuli, Venezia Giulia, Calabria, Veneto, Lombardia, Lazio e Basilicata, e 3 straniere, Francia, Bulgaria e Serbia, le nazioni d'origine. Grazie davvero Luca e in bocca al lupo per il continuo del progetto. Grazie. Adesso un Aeropostit e ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua in diretta con l'Altra Europa. Europostit. Borse di studio per master in Spagna. Il campus internazionale tra l'Università di Murcia e l'Università Politecnica di Cartagena, Mare Nostrum, mette a disposizione 95 borse di studio per svolgere 19 master universitari nell'anno accademico 2015-2016 presso l'Università di Murcia e l'Università Politecnica di Cartagena, Spagna, in collaborazione con l'INPS Gestione Dipendenti Pubblici. Ci sono alcune prescrizioni per partecipare, ma la finestra prevede dei partecipanti fino ai 40 anni. Per saperne di più, seguite il link dal sito di Scambi Europei, scambieuropei.info. Avete tempo fino al 19 gennaio. L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa. Vi ricordo che ci trovate sulle nostre piattaforme digitali, Euronet Plus, R24, l'account ufficiale, oppure il mio personale, Federico Taddia, su Twitter e su Facebook. Siamo accompagnati da questa musica che è la colonna sonora del video ufficiale di Monza, capitale della cultura, che è la capitale della cultura 2015 insieme a Pilsen. Tra questi giorni, insomma la prossima settimana, Pilsen in Repubblica, Mons in Belgio apriranno i loro anni in quanto capitali della cultura 2015, e quindi volevamo andare a visitare le due città, capire come si stanno preparando a questo anno fondamentale, questo anno in grado di cambiare, modificare, trasformare tutto un tessuto sociale e urbanistico. Sapete che Matera nel 2019 vivrà questa esperienza. Andiamo quindi nelle due città, andiamo prima a Pilsen, dove c'è Valeria Pupili, che è ambasciatrice culturale per Perugia 2019, che era città candidata, però ci spiega lei cosa ci fa ora a Pilsen. Ciao Valeria, buon sabato. Ciao Federico, buongiorno. Cosa fai a Pilsen? Cosa c'entra l'essere ambasciatrice a Perugia e trovarsi a Pilsen? Hai già anticipato, era un progetto promosso da Perugia 2019. Hanno inviato professionisti giovani nelle altre capitali future europee della cultura e io sono capitata a Pilsen per lavorare con l'organizzazione di Pilsen 2015. Ah, quindi... Era un progetto di scambi, di competenze, diciamo che ero qui anche un po' in veste di spia per vedere appunto come ci si prepara all'anno fatidico. Certo, tu di cosa ti occupi in particolare? Allora, io sono nel Dipartimento di Marketing e Comunicazione e quindi ho supportato l'organizzazione in questo settore. Poi naturalmente ho partecipato attivamente a tutti gli eventi preparatori all'anno 2015 e nel prossimo fine settimana ci sarà il grande evento, la grande apertura qui a Pilsen per l'anno 2015. E Valeria, facci vedere Pilsen, che città è, che a cosa assomiglia, qual è la prima cosa che ti ha colpito? Allora, devo dire che la città mi ha sorpresa perché all'arrivo la immaginavo più grigia, più scura, invece è una città molto, molto colorata, molto giovane e con una grande vita. E quindi io penso che oltre ad essere famosa e visitabile per via delle numerose birrerie, poi qui c'è la birra, diciamo, la tradizionale, anche da un punto di vista turistico ed essere anche culturale, vale la pena scappare da Praga e venire qualche giorno qui. Poi comunque una tipica città della Boemia e anche la natura e i vari castelli intorno, è una bella regione che mi ha sorpresa. Mi sembri già un'ottima ambasciatrice anche per Pilsen. Allora, il 17 gennaio l'apertura ufficiale di questo anno, che vede come slogan Open Up, apriti, cosa racchiude questo slogan? Diciamo che rappresenta proprio il simbolo di Pilsen, che è la birra. Open Up era l'idea di trasformare in questi 5 anni, dall'anno della vittoria fino al 2015, aprire la città, sia far conoscere all'estero e in Europa la tradizione e la cultura locale, ma soprattutto ricevere contaminazioni, artisti dall'estero. Quindi aprire la mentalità da una città, trasformare Pilsen da una città industriale a una città anche di cultura, dove valga la pena vivere, stare, studiare. Ci sono stati in questi 5 anni diversi eventi e anche diversi dibattiti con i cittadini per cercare di capire cosa mancava e cosa era necessario fare per far sentire anche la popolazione locale l'appartenenza all'Europa. Comunque la Repubblica Ceca è dal 2004 che fa parte dell'Unione Europea e ancora questo sentimento non è poi così sentito, specialmente una cittadina di provincia. E diciamo che in questi 5 anni si è fatto molto e la città sta aprendosi e cambiando, e quindi penso che questo anno, nel 2015, sarà l'exploit per Pilsen. Allora, e Pilsen, scritto PLZEN2015.cz, il sito ufficiale di Pilsen, capitale della cultura 2015, hai messo o puoi mettere per noi qualche asterisco su qualche evento da non perdere o particolarmente significativo? Beh, allora, innanzitutto sicuramente il prossimo fine settimana sono previste 50.000 persone, ci sarà lo spettacolo di un equilibrista al centro della piazza, poi vari concerti, le gallerie rimarranno tutte aperte, quindi sarà un weekend di grande festa. Invece durante tutto l'anno io consiglio vivamente agli appassionati di architettura la visita degli appartamenti dell'architetto Loss, che saranno eccezionalmente aperti nel 2015. È un diciamo, della scuola di viennese della prima metà del Novecento. Altrimenti la stagione del circo, verranno durante tutto l'anno ospitate nuove compagnie circensi con spettacoli alternativi, e il più bello forse si concluderà ad agosto con la compagnia berlinese Royal Deluxe, che presenterà dei giganteschi diciamo robot pupazzi, alti anche fino a 10 metri. Una sfilata di questi sarà molto, credo, molto interessante. Credo anch'io. Grazie davvero, Valeria. Tu rimarrai lì fino a quando? Fai tutto. Allora, io per adesso fino a febbraio con il mio progetto, ma non escludo di rimanere. Sì, l'avevo immaginato sentendo il tuo entusiasmo. Ci ritroveremo sicuramente qui all'Altra Europa, quindi, per venire a visitare radiofonicamente e Pilsen durante l'intero anno. Ciao e grazie per questa tua testimonianza. E andiamo al volo invece a Mons. Siamo in Belgio, con noi c'è Lisbeth Van de Putet, collaboratrice di Mons 2015, si occupa dei contatti con le città e le istituzioni partner. Ciao Lisbeth. Buongiorno. Buongiorno. Parli italiano perché hai fatto l'Erasmus a Padova, so. Sì, già 12 anni fa. Che ricordo hai della tua esperienza? Un ricordo bellissimo e amicizie che durano ancora oggi, quindi bellissimo. Mons2015.eu, il sito ufficiale per conoscere l'intero programma. Anche a te la stessa domanda, mi puoi fare una piccola cartolina da Mons? Che città è? Allora, Mons è una città a appena un'ora di Bruxelles e 40 minuti dell'aeroporto di Charleroi, quindi molto raggiungibile. È soprattutto una città con un patrimonio storico molto molto bello, perché già adesso siamo tre volte patrimonio dell'UNESCO, con un campanile, l'unico campanile barocco di Europa. Abbiamo una festa gigante a giugno ogni anno che si chiama il Dudu, che è anche patrimonio dell'UNESCO, ed è una città molto conviviale, con una piazza molto bella, carina, del Cinquecento, e ci sono vari palazzi, così è una bellissima città per passeggiare. Ho capito. Il 24 gennaio la data d'apertura ufficiale di questo anno che punterà su cosa in particolare? Allora, il tema che abbiamo scelto per tutto l'anno è Where Technology Meets Culture, quindi un insieme, un matrimonio tra tecnologia e cultura. Sì. Allora, si vedrà in tante cose, spettacoli, tanti spettacoli, musica, danza, ma facciamo molto di più di questo, perché ci saranno spettacoli molto vari, esposizioni, e uno che punterei in particolare è quello di Van Gogh, perché pochi lo sanno, ma Van Gogh ha vissuto 2 anni nella regione, e sono 2 anni molto importanti, sono stati molto importanti nella sua vita, perché è lì che ha deciso di diventare artista. Quindi rifaremo questo percorso di 2 anni, dove è stato nelle miniere di carbone, e dove si è trovato questa voglia di diventare artista. Intorno a questo ci sarà un'esposizione che comincia il 25 gennaio, ma ci sono anche percorsi nella regione per scoprire dove ha vissuto. A luglio, per esempio, faremo un labirinto gigante con fiori, come si chiamano, quelli fiori gialli di Van Gogh? I girasoli, okay. Grazie. un labirinto di girasoli, e ci sarà tanto intorno a Van Gogh. Fantastico. E Mons2015.eu, ricordo, è il sito. Grazie davvero Lisbeth, ci ritroveremo anche con te per raccontare questo anno, poi con il vario susseguirsi degli eventi. Ciao e buon sabato, grazie ancora. Grazie. Europost-it. Un lavoro a Budapest nelle risorse umane per la FAO. Siete laureati in gestione delle risorse umane o in business administration? Conoscete bene inglese o francese? Se volete andare all'estero, c'è un posto nella gestione delle risorse umane della FAO a Budapest, in Ungheria. La FAO è una delle più grandi organizzazioni internazionali che si occupa di garantire la sicurezza alimentare nel mondo, eliminare le carestie, ridurre la povertà nel mondo e implementare sistemi agricoli. Il contratto offerto è a progetto dai 3 agli 11 mesi di durata. Per candidarsi c'è tempo fino al 15 gennaio. Per saperne di più, fao.org/employment. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it. È una litania, è una lunga litania, lo so, ma adesso succederà qualcosa, vero, in questo brano? Eccola lì. Tutto questo per entrare nel mondo tecnologico insieme ai Daft Punk, per raccontarvi quello che sta succedendo in Estonia, dove si può diventare cittadini virtuali. È la prima nazione europea a lanciare questa possibilità. Ne parliamo con Ulle Todde, giornalista e addetta stampa dell'Associazione Culturale Italia-Estonia. Ciao Ulle, ben ritrovata. Ciao Federico e ciao a tutti. Allora, questa cosa della cittadinanza virtuale, ci dobbiamo spaventare, no? Allora, forse non spaventare, perché prima cosa sicuramente di dire anche che non è proprio la cittadinanza, però noi lo chiamiamo la residenza, o residenza virtuale o residenza. Certo, Ulle, ti chiedo una cortesia, guarda, ci fermiamo un attimo e cogliamo l'occasione per dare le informazioni del traffico, che cambiamo immediatamente perché c'è la linea è un po' disturbata, quindi ti richiamiamo. Intanto vi lancio il sito che è elinietaestonia.com, il portale dove ci si può registrare per questa cittadinanza virtuale. Andiamo a scoprire appunto di cosa si tratta. Elinietaestonia.com, lo facciamo subito dopo le informazioni per chi sta viaggiando. L'altra Europa. Eccoci ancora qua in diretta con l'altra Europa, con noi Ulle Todde, giornalista detta stampa dell'Associazione Culturale Italia-Estonia. Allora Ulle, che cos'è questa cittadinanza virtuale? Allora, praticamente è una possibilità di collegarsi con sistema della infotecnologia, dove si può usare servizi che offre il Stato. Infatti Estonia è abbastanza avanzato e si dice che abbiamo più o meno 4.000 servizi. E praticamente questa residenza è utile per delle persone che hanno un legame con Estonia, per esempio imprenditori oppure persone che per lavoro vanno spesso in Estonia, oppure anche studenti, per esempio. Perché grazie a questa sorta di carta d'identità elettronica si può accedere a tantissimi servizi, ma tutti i cittadini dell'Unione di fatto possono domandare di essere residenti virtuali in Estonia, no? Basta, mi sembra, recarsi almeno una volta in Estonia per provare la propria identità e viene data questa sorta di cittadinanza. Sì, teoreticamente tutti i cittadini da tutto il mondo, di altri paesi, andando in Estonia e facendo una visita alla polizia di frontiera, dove devono anche lasciare le impronte digitali e fare la scansione del viso. E poi, facendo la domanda, dopo 2 settimane arriva una sorta di smart card con chip che si permette di collegarsi con questi sistemi del Stato estone. Ecco, ma i vantaggi reali sono quelli di abbattimento di barriere burocratiche, no? Per fare tutto più facilmente. E come si spesso dice in Estonia, che l'Estonia ha scelto questa soluzione anche proprio perché è un paese che forse non è così ricco, diciamo, come tanti altri paesi in mondo, in vecchia Europa, e quindi è stata una soluzione anche abbastanza diciamo economicamente buona. italiano per stato di fare tutta la burocrazia in quel modo, e si può quindi firmare i documenti senza andare in un ufficio, aprire il conto in banca, oppure anche aprire una ditta, per esempio, che certamente è comodo. Poi si può anche ordinare una medicina, per esempio, tramite questo sistema, collegandosi con il suo medico senza di andare veramente visitare il medico. Quindi offre tantissime possibilità, e praticamente ci sono tre cose per questo sistema, o così dire un kit di tre cose. Quindi questa smart card con chip, poi si vuole un lettore USB che è capace di leggere questa carta, e poi si vuole un software che si installa nel computer, oppure anche si usa smartphone. Certo, sono oltre 4.000 i servizi più o meno conteggiati che potranno essere svolti e utilizzati attraverso questa cittadinanza virtuale, una sorta di progetto pilota per quello che può essere comunque l'Europa di domani. Grazie davvero, Ulle, buon sabato reale. Grazie, un buon sabato reale. Ok, ciao, grazie, ciao ciao. Grazie. Europostit. Servizio volontario europeo in Finlandia. Il sito Scambi Europei segnala una ricerca per 6 opportunità di servizio volontario europeo in Finlandia, con tematiche legate alla cultura, all'infanzia, alla disabilità, all'ambiente e al tempo libero. I volontari devono avere tra i 18 e i 30 anni e ci si può candidare per più di un progetto, ma con una candidatura diversa di volta in volta. È prevista ospitalità e un pocket money mensile. Per saperne di più, scambieuropei.info. Facile capire con queste sonorità dove stiamo andando appunto in Grecia, dopo aver letto un articolo pubblicato da Osservatorio Balcani e Caucaso intitolato Grecia, boom del turismo tra Twitte e Hollywood, la Grecia della crisi economica ma anche politica, che però appunto è anche la Grecia della creatività, come abbiamo raccontato tante volte in questi ormai anni, dove la crisi ha veramente attanagliato e ha tagliato le gambe alla Grecia, alla società greca, però appunto dando e aprendo nuovi spazi creativi. Ci ha incuriosito questo articolo a firma di Gilda Ligunis. E Gilda è qua con noi. Ciao Gilda, ben ritrovata. Ciao a tutti, buon anno. Buon anno anche a te. Allora, cosa sta succedendo? Cos'è questo link diretto tra la Grecia e Hollywood? Ma diciamo che ci sono, innanzitutto appunto sono questi anni di crisi, sono anche anni di boom del turismo, come dicevi. 2014 in Grecia sono arrivati 19 milioni di turisti, che calcolando appunto la 10 milioni di abitanti greci, sono quasi il sono una cifra apocalittica, come se in Italia arrivassero 120 milioni di turisti in un anno. Assolutamente. No? Quindi, però perché Hollywood? Perché ovviamente, a proposito di creatività, ci si è accorti che ogni volta che c'è un film girato in Grecia, automaticamente i turisti che si dirigono poi verso l'isoletta o verso il luogo dove è stato girato questo film si impennano come numero. Uh-huh. È successo a Cefalonia col mandolino del capitano Corelli nel 2002, è successo, non ne parliamo, con Mediterraneo, il film premio Oscar, girato a Castellori, su un'isoletta piccolissima fra Rodi e la Turchia, che prima non conosceva nessuno, adesso è presa d'assalto dai turisti. E insomma, ha fatto un po' di conti e la ministra attuale del turismo, adesso il governo sta cadendo comunque, sì. Diciamo, quella che fino a pochi giorni fa era ministro, esatto. La ministra del turismo ha deciso di volare a, non proprio a Hollywood, ma al Sundance Festival, quello sì, fondato da Robert Redford. Mm-hmm. Perché Robert Redford? Perché Robert Redford negli anni 60 e 70 ha vissuto a lungo con la famiglia a Creta e ne è rimasto affascinato e ne parla sempre benissimo. E quindi il Sundance Festival oltretutto è un posto di ritrovo dell'elite, certo, anche dei nuovi talenti, non so, e quindi è stato un modo per andare lì per proporre anche, perché l'idea è proprio quella di invitare i registi, cioè proporre la Grecia come location e che location per girare i film, però con noi appunto in maniera strategica. Avrà dei seguiti? Ci sono già è solo un'idea per ora o sono già andati al festival? Ma il festival è a fine gennaio. A fine gennaio, quindi. Ok, quindi esatto. Quindi il progetto adesso bisogna vedere, il governo sta cadendo, ci saranno il 25 gennaio, esatto, nuove elezioni. Avranno altri problemi, credo, a fine gennaio. Però penso che quest'idea sia una buona idea, quindi come si dice, non vedo perché dovrebbe cadere, anche perché quello che continua assolutamente, tu citavi Twitter all'inizio. Adesso chiunque faccia qualche cosa, qualunque celebrità faccia qualcosa, fa un tweet, regolarmente tutti gli attori che vanno in Grecia, ecco, citavo Russell Crowe, che è andato a Mykonos quest'estate, ha fatto un tweet: che meraviglia, questo è vero paradiso. E Russell Crowe oltretutto di origine australiana, e chissà come mai per l'estate 2015 gli australiani sono registrati, cioè la loro seconda meta turistica preferita dall'Australia, sì, bel po' lontana, mm-hmm, è proprio Mykonos, la cittadina che ha citato Russell Crowe. Insomma, quindi, è molto, già questo è significativo. E Gilda, prima di salutarci, come ci si sta avvicinando a queste elezioni? In modo, al di là degli splendori di Hollywood, in modo sarà paura sicuramente, mm-hmm, per quello che riserva il futuro, e tensione. E io vado spesso in Grecia, sento che moltissimi hanno paura, per esempio, a votare Syriza, che è la sinistra radicale che è in testa ai sondaggi, no? Perché il leader di Syriza, Tsipras, continua adesso a rassicurare tutti dicendo che io non voglio far uscire la Grecia dall'euro, voglio ricontrattare il debito, così. Però dall'altra parte il centrodestra sta facendo una campagna, diciamo, terroristica, no? Mm-hmm. Tsipras rovinerà la Grecia, ci farà uscire dall'euro. Però la gente dice: sì, io ho paura, molti dicono io ho paura, ma voterò Tsipras lo stesso, perché l'importante è che questi qui che ci hanno messo in questa situazione se ne vadano. Questo. Oppure ho paura di Tsipras, di quello che ci può, dell'avventura della sinistra radicale, però questi che sono al governo adesso, il centrodestra, l'associazione centrodestra socialisti, non li voto lo stesso, perché voterò un partitino minore. Queste sono le, diciamo, tendenze. L'estremismo invece di Alba Dorata è ridimensionato. Purtroppo quello continua a essere il terzo partito, cioè se si è dato al primo posto il centro, poi c'è il nocciolo duro di Nuova Democrazia, che sarebbe il centrodestra, che è sempre sul 20%. Il terzo partito, ecco, la terza posizione se la giocano i comunisti e Alba Dorata, quindi quella c'è sempre, non crisi o non crisi, non è stata ridimensionata, però voglio dire, la gente soffre. Faccio un esempio, proprio la mia cittadina, Chania, l'isola di Creta, in questo momento nevica, cosa eccezionale, fa un freddo cane, ma non non accendono il calorifero perché non ci sono soldi. Basta questo per dare un'idea. Quindi, molto... la gente vuole cambiare. La gente vuole cambiare, certo, la quotidianità è questa, il paese reale, quello che ci hai raccontato tu in una battuta. Grazie davvero a Gilda Ligunis, Osservatorio Balcani e Caucaso, per leggere come sempre i suoi ottimi articoli. Ciao Gilda, buon sabato, grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao. Prima di salutarci per questa puntata vi voglio segnalare l'iniziativa che ha lanciato la rappresentanza d'Italia della Commissione Europea nelle pagine Facebook, facebook.com/Europa in Italia, oppure anche sugli altri social network come Twitter, twitter.com/Europa in Italia. Hanno chiesto a tutti i vignettisti che hanno partecipato al premio una vignetta per l'Europa, che viene organizzato ogni anno in occasione del Festival di Internazionale a Ferrara, di esprimere il proprio dolore per l'attentato parigino, per l'attacco alla libertà di stampa, di farlo con una vignetta, vignette che stanno già arrivando e che sono pubblicate appunto su il portale in Facebook. In questi giorni verranno aggiunte le vignette, quindi anche questo è un modo per far sentire la voce dell'Europa. Un grazie a tutta la squadra dell'Altra Europa, in assistenza oggi Claudia Schiattone, Daniele Bonamici, in regia Pietro Lacorte, Margherita Aina e Silvia Righini, che con me hanno scritto la puntata. L'appuntamento come sempre a sabato prossimo, ciao! L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.